Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Buongiorno a tutti, benvenuti a un'altra puntata di Lucciole nelle tenebre. A tenervi compagnia quest'oggi ci sono sempre io, Pietro, e accompagnato dalla mia dolce... Mi piace questo dolce. Dolcissima Francesca. Ciao a tutti, Francesca che tra l'altro è affamatissima, quindi... Sì, potrei mangiare il microfono. Però, va bene. Di cosa parliamo oggi, Pietro? Oggi, dunque, proseguiamo il filone che avevamo iniziato la scorsa puntata. La scorsa puntata, per i pochi che non ci hanno ascoltato, che non ci hanno ascoltato, assolutamente, abbiamo parlato dello scandalo, diciamo, rifiuti in Campania. Infatti è venuto fuori il documento che era stato secretato della commissione Ecomafie nel lontano 97, in cui Carmine Schiavone faceva delle rivelazioni parecchio pesanti. Infatti il casalese Carmine Schiavone aveva dichiarato davanti alla commissione che i casalesi avevano iniziato un traffico di smaltimento di rifiuti in Campania, nel Basso Lazio, che gli aveva portato ingenti profitti, ma che aveva causato soprattutto molti danni alla salute degli inconsapevoli cittadini campani. Che venuti a conoscenza della secretazione del documento si sono effettivamente riversati per le strade di Napoli con una manifestazione intitolata Stop Biocidio, e appunto 16 novembre, sabato, decine di migliaia di napoletani e non solo sono scesi in piazza fino a Piazza del Plebiscito per appunto protestare contro, in primis, la Camorra, ovviamente, ma non solo, e anche contro l'imprenditoria e lo Stato che, ahimè, troppe volte si è reso complice della mafia. E anche in questo caso tener secretato un documento così importante per 16 anni, insomma, un documento in cui le rivelazioni sono davvero pesanti. Come vi avevamo detto l'ultima puntata, Schiavone addirittura a un certo punto dichiara che in 20 anni i cittadini campani rischiavano davvero di morire. Di tumore, per carità, ovviamente non c'è attendibilità scientifica, lo ripetiamo, però insomma la frase è sicuramente grave. D'effetto, ma comunque, per quanto non c'è, cioè, appunto, Schiavone non sia sicuramente un medico, ma medici e oncologi affermano ad oggi che effettivamente in Campania c'è stato un forte aumento del tasso tumorale, che non è ancora non si è ancora appunto un certificato scientifico, nel senso un certificato ufficiale, ma in maniera ufficiosa, appunto, queste sono le dichiarazioni. E non stentiamo a crederlo, anche perché molti tra la folla della manifestazione di questo sabato erano genitori, madri o parenti di persone che erano, appunto, sono morte in questi anni per il tumore, per dei linfomi che sono dovuti appunto all'inquinamento che dovuto appunto ai rifiuti, che tra l'altro rifiuti di cui una buona parte era radioattiva. Ma oggi, diciamo, quindi vogliamo proseguire questo tema. Tra l'altro il consiglio che vi diamo è anche di guardare il servizio di Piazza Pulita dello scorso lunedì, che ben presenta la manifestazione e in cui è stata anche realizzata un'intervista a Nicola Cosentino, un'intervista di corsa, perché lui stava facendo jogging e quindi la giornalista ha dovuto inseguirlo. E a noi quest'oggi piacerebbe parlare di Nicola Cosentino, detto Nico Americano. E prima di parlare di Nicola Cosentino possiamo mandare una canzone. Sì, e poi ci addentreremo, diciamo, sulla sua biografia e vi spiegheremo anche perché è collegato a questa vicenda. Sì. La canzone che vogliamo lanciare è di Devendra Banhart e si chiama Little Boys. Life is tough. Love is rough for the man who just can't seem to ever get enough. The days go by and the women so you don't have to hear them all disappear. You just sit in your way, staring at your empty plate, and you can say I'm alone. All my dreams, cause I can have it all, but I don't want it at all. And it ain't like I've never, ever, ever tried. I just never been fully satisfied. Just a tie, a little shoelace, sand to share, a sleeping bag, and I look ahead to the day. And when I look back at all the fun that I've had, but still. So many little boys I wanna marry. I see plenty little kids I've yet to have. Even when the moon goes out, even when the sea dries out, I still see so many little boys I wanna marry. See plenty little kids out here to have now. Even when the seas all freeze and everything is lying on me, and even when the sun ceases to shine, I won't care. I still have on my mind so many little boys I wanna marry. So many little boys I wanna marry. I see plenty little kids I've yet to have, you know. I got many little boys I wanna marry, yeah, you know. I got plenty little kids I've yet to have. Nicola Cosentino è originario di Casal di Principe e ha intrapreso in campagna la carriera politica fin dal 1980. Durante la carriera politica entra in contatto con appunto le forze della Camorra, e proprio grazie alla Camorra viene piazzato molte volte in... il suo nome viene scelto rispetto a quello degli altri. Sì, tra l'altro aveva anche delle parentele interessanti. Era parente di Peppe Upadrino. Il nostro accento è straordinario. Perfetto. Ecco, era parente acquisito di Peppe Padrino. È parente acquisito di Peppe Padrino. Naturalmente non possiamo dire che il fatto che uno sia parente di un mafioso o di un camorrista può essere un reato, assolutamente no, non ci ne guardiamo bene. Però tutto il resto della vita di Nicola Cosentino diciamo ha dato una mano a questa credenza. Direi proprio di sì. Ma Nicola Cosentino soprattutto è stato indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e il 15 marzo si costituisce di quest'anno si costituisce davanti al carcere di Secondigliano e poi viene anche incarcerato a Santa Maria Capua Venere. Per venire poi scarcerato e veniamo a noi l'8 novembre di quest'anno, quindi pochi giorni fa. Sì, appunto è una notizia recentissima, lui infatti era sotto custodia cautelare per il rischio di inquinamento di prove, poi questo rischio è insomma decaduto e quindi i giudici hanno ritenuto che non ci fossero più gli estremi per la carcerazione. Ma appunto la vita politica di Cosentino è sicuramente rilevante per il paese, ahimè. Perché infatti dal 96 al 2008 è stato parlamentare prima di Forza Italia e poi del PDL. Ricoprendo sempre degli incarichi a livello provinciale di una certa rilevanza, tra cui quando all'origine era iscritto nel PSI viene eletto come assessore provinciale all'agricoltura, quindi sicuramente una carica che favorisce poi la sua posizione. Che la posizione che i PM hanno rivelato avesse nella indagine sui rifiuti tossici in Campania e Basso Lazio, dove infatti era faceva parte insieme a due fratelli, i fratelli Orsi, di una società chiamata Eco 4. Sì, società per cui appunto Cosentino verrà poi indagato. E è interessante anche la sua vicenda parlamentare perché nel novembre 2009 viene chiesta alla Camera, in particolare alla Giunta, per l'autorizzazione a procedere nell'esecuzione della custodia cautelare, appunto perché Nicola Cosentino era stato indagato per concorso esterno in associazione camorristica. La Giunta nega l'autorizzazione, così come la negherà nel 2010 in seguito alla richiesta da parte dei PM della possibilità di avvalersi delle intercettazioni telefoniche. E anche nel 2012. Ma anche nel 2012 la Giunta per l'autorizzazione, con 11 voti favorevoli, 11 voti contrari e 10 favorevoli, negherà ancora una volta l'autorizzazione. Quindi insomma è l'emblema dell'immunità parlamentare. Sì, che fa impressione in questo caso, nel senso che naturalmente tramite le sue intercettazioni i PM sarebbero arrivati a conoscenza di prove e di documenti che invece in questo modo ci mettono il triplo o forse non scopriranno mai anche. Chiaramente, e poi nel gennaio non viene più ricandidato col PDL, insomma, in seguito alla forte pressione anche mediatica e il 15 marzo, appunto, come diceva all'inizio Francesca, si costituisce presso il carcere di Secondigliano. Ma veniamo, diciamo, alla parte delle accuse che vengono proprio mosse a Cosentino e delle indagini che sono ancora in corso. Innanzitutto i filoni di indagine sono due. Il primo riguarda appunto il versante smaltimento rifiuti, quello di cui dicevamo prima, la società Eco 4, appunto in combutta con i casalesi in cui si spartivano la gestione dei rifiuti. E inoltre Cosentino viene indagato anche in un'indagine soprannominata Il principe e la scheda ballerina, in cui i PM affermano che avesse autorizzato per la realizzazione di un ipermercato a Casal di Principe appunto avesse autorizzato l'Unicredit a un finanziamento di 40 milioni, l'avesse sbloccato, diciamo, a favore di questa piccola SRL che era in mano ai casalesi. E inoltre è anche coinvolto nello scandalo P3, appunto lo scandalo P3 che riguarda questa cricca guidata da Carboni che si era interessata all'eolico in Sardegna e che si dice abbia spinto molto affinché Cosentino diventasse governatore della Campania nel 2010. Poi così non avverrà, perché verrà scelto alla fine Stefano Caldoro, che è l'attuale governatore, però insomma è coinvolto pure in questa vicenda. Sono anche interessanti le dichiarazioni dei pentiti, dei vari pentiti che davanti ai magistrati hanno parlato di Cosentino, e Salvatore Caterino dichiara che i Cantielli e i Russo impegnavano le persone a loro vicine nella campagna elettorale in favore di Cosentino, perché dice avevano bisogno di un referente in Parlamento, così come Francesco Della Corte nel 2011 afferma che Cosentino era il, diciamo, come dire, la garanzia politica del clan. Ancora si dice che intrattenesse rapporti con Francesco Schiavone, detto Sandokan, che era, diciamo, forse il più grande capo dei casalesi. Quindi insomma, molti, lo stesso GIP di Napoli lo definisce come referente nazionale dei casalesi, appunto. Quindi insomma, diciamo che Niccolò Merigano era effettivamente impastato fino al midollo, mi piace. Ecco. Bene, e quindi adesso è stato scarcerato, vediamo insomma come procederà la sua vicenda. Certo è che pensare che un ex sottosegretario dello Stato italiano fosse, secondo alcuni pentiti, appunto il referente nazionale per la Camorra, fa venire i brividi. Fa davvero venire i brividi. Vi lasciamo con un altro pezzo, e il pezzo che vi lanciamo è degli IPA e si chiama Feel Burn. Rubrica Buffie. Fantastico, riprendiamo con la nostra rubrica Buffie, a cui ormai siete affezionati. E oggi vorremmo leggervi un articolo che ha scritto Tommaso Montanari sul Fatto Quotidiano il lunedì di mi pare 18 novembre, sì, lunedì 18 novembre. Tommaso Montanari, ricordiamo, per chi non lo sapesse, che è uno storico dell'arte e tra l'altro che insegna alla Federico II di Napoli e è venuto a una nostra iniziativa il 5 novembre scorso, interessantissima, che abbiamo fatto la giurisprudenza. Lo dice solo perché moderava lei. Comunque. Moderavo io, sì, quindi sono molto fiera. No, però effettivamente è stato veramente molto interessante il suo intervento e oggi vi leggiamo un articolo che ha scritto parlando del Davide di Michelangelo. Ma come sempre Tommaso Montanari non si accontenta di essere uno storico dell'arte con i controcoglioni, si può dire, ma ha quello sguardo in più che a noi piace tanto, nel senso che riesce a dare un ruolo all'arte che non è quello decorativo, non è quello di una cosa solo per gli snob o per le persone... Boh, sì, per una cricca ristretta, ma è un ruolo invece che deve essere politico. E adesso vi leggiamo l'articolo. Dunque, il titolo è David, gigante più grande di Golia. Uno solo e colossale, un gigante, come quelli che si leggevano nelle storie degli antichi, se erano vere. Ci avevano provato per un secolo intero, senza riuscirci, e non in astratto, quel pezzo di marmo era arrivato a Firenze proprio a quello scopo, 40 anni prima, ma niente, l'avevano mezzo rovinato, senza riuscire a tirarci fuori nulla. E poi arriva lui, Michelangelo, avrà sì e no 25 anni, fallirà come tutti, dicono i fiorentini, sempre gli stessi. E invece no, lui ci riesce, e da quel marmo sciancato salta fuori il gigante, l'uno per eccellenza, l'uno unico, la singola figura umana più perfetta che mai fosse stata concepita. La forza, la potenza, la giustizia fatte corpo, uno solo. È David che guarda lontano, verso Golia, senza paura, con la fionda pronta e gli occhi fissi su quel gigante filisteo. In un'arte nuova, moderna, che guarda fino a noi, è un'idea dell'uomo così sovrumana da mettere quasi paura, tanto perfetto che si decise di non issarlo sulle guglie del Duomo, per una di delle quali era nato, ma di metterlo in piazza, e lo decise una commissione eccezionale, dove sedevano tipetti come Botticelli, Filippino Lippi, Perugino, Leonardo. Il gigante aveva vinto anche l'invidia. Sopravvissuto ai fulmini e alle sommosse popolari, l'unica battaglia che ha perso è stata quella con il tempo. E così, nel 1873, il gigante fu fatto prigioniero e trasportato in un museo. E l'uno subì l'onta di diventare due, anzi tre. Una coppia di marmo fu messa in piazza, una di bronzo al piazzale dedicato a Michelangelo. E lui in gabbia, come al circo o al Luna Park, buono per far pagare i biglietti ai turisti, peggio, serve per far vendere il prosciutto crudo con sottoscritto prodotto toscano, per stamparlo sui grembiuli da cucina, per moltiplicarne il pisello su milioni di cartoline per cretini perfetti, per accapigliarsi sul fiume di quattrini che produce, per farci le cene intorno, tutti eleganti, col calice di bollicina in mano e il sorriso da dementi. Ed eccolo circondato da tavolini imbanditi, peggio che in catene. È così che ha perso la sua forza, quell'unico gigante. Perfino la sua dignità ha perso. Non riesce più a difendere la piazza e il palazzo vecchio. Sarà per questo che laddove regnava la fiorentina libertas, la libertà di Firenze, oggi si celebra il demonio del dio mercato. E lui sta in gabbia. Venghino, signori, venghino! ma è impossibile pensare che un giorno, magari tra mille, quella fionda inizierà a girare. Quei muscoli prenderanno a muoversi, quel giorno non ci sarà Golia che tenga. Vi lasciamo con Sister Rodriguez, I Wonder, e ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Don't you? I wonder how many times you've been had.